che se 9 in 20 sono dei segnali, aspetta che controllo io qua. Vado a vedere staccato, staccato. E un'altra cosa ancora, secondo me la te la faccio. Questo è staccato, ora. E questo è attaccato, c'è abbastanza. Anzi, da 9.10 a 9.20, però si satura, vabbè, siamo vicini. Troppo ingresso mi stai dando magari, non lo so, in lontananza devi vedere. No, Ah, perché quello va a 12. Antolite sono 30 ampere almeno. Io sto usando quelli senza strumenti. Ma io per quello che l'evento gli ho messo il bagaglio, capito? Per accendersi quando scalda. In che senso? Eia, sì. Che alimentatore hai? Mandami la foto. E con quello ci vuoi alimentare, l'uno e l'altro? Pochini sono. Pochi ampere sono. Pochi ampere sono, capito? Ah, poi da vedere a parte sono pochi ampere. Ehi, se il segnale qua è basso, 9.20 sei solo, molto molto basso. Ma no, adesso sono passato con l'auto. 9.20, sì. Ma ho anche, aspetta un attimino che commuta l'altra radio. Questo è il 35, forse è meglio, un migliore di questo. Ciao, avanti. Guarda a vedere se pompa di più adesso. Aspetti attimo. Aspetta che metto attimo a storia. Prova. Attenuato sui 9.10. Se fosse attenuato? 9.20. Aspetta, vedere un attimo, che metto lo strumento. Ecco. Sembra un attesto, sì, Antu. Magari sei più positivo per il frontale all'antenna, ma qua sei coperto. Aspetta un attimo, che qua... Sì, il segnale è sempre lo stesso. C'è un qualcosa che... H-I-L-O-P, alta e bassa, quella sarà la potenza senz'altro. Non cambia più. Aspetta, riprova. 1, 2, 3. 1, 2, 3, no. Cambia la musica 9.30. ma stai attento tu, sempre il rosmetro sotto mano, perché lì ti fa un riflesso con l'antenna che che bruci finali così. Non è data che sei troppo attaccato al muro. 1 e 1 è tanti avanti, però c'è qualcosa che non va. magari in lontananza vai bene, ma qui saturi. Ma forza, è vero. No, te la rovina la radio, non è che la migliori, la rovina, è inutile che aumenti il segnale e la radio rovinata, perlomeno qua. Devo passare. Ciao Lu. E questo non è quello che tu hai detto stamattina, questo è un altro. Però la offerta non me la aumenta. Ciao Luca. Ciao Giulio, buonasera, non so se senti, c'è Antonio. Sì, lo sento basso basso, ciao tu. Basso basso lo sento. Dai, ho da fare lui, dai, devo fare qualcosa qua. Ci sentiamo, ciao Luca, ciao Antonio. Chiudo. Ciao Giulio, già siamo qua noi. Ciao Giulio, mi senti? Sì, ti sento, ma sei basso. Comunque va bene, dai. Ci sentiamo, dai, devo ho cosa da fare qua. Ciao. Però mi sono che l'alimentatore che non ha piatto. Lì te ne serve uno, insomma. Quanto è questo che hai messo adesso, l'alimentatore? No, adesso no, è 35. Un po' di onde, di notte, no? Troppo attaccata al muro quell'antenna per usare quella roba lì antiocchio. Sì, è importante che spinga. Ma te lo spingi a te, occhio. Cosa vuol dire? È troppo attaccata al muro e ti fa rientrare, stai attento che puoi bruciare i finali della radio. Vabbè. La mazza sta nella scenda, cazzo. Un po' cazzo buco che fai. Niente, non si può usare questo. Non si può usare perché fa troppo casino quello là. Adesso andiamo un'altra ancora, lo provo per vedere se fa rientrare. In che senso casino? Casino della ventola, non quello grande, no, quello switch. Guarda, io la ventola mia, questo è quelli senza strumenti, guarda, l'accendo quando voglio, vedi? Ma ti metto un pulsantino? Io gli ho messo un regolatore di giri, a seconda come lo devo usare, la tengo a minimi giri la ventola, così tiene sempre freddi i finali, oppure l'accendo ogni tanto, la aumento direttamente, capito? E faccio così. Aspetti, mando la foto. E la ventola si brucia. Devi toccarlo ogni tanto, se vedi che sta scaldando troppo sì, ma se devi usare solo il baracchino non le va di nulla. Ah, io usavo questi senza ventola, te puoi immaginare. Volevo mettere un regolatore, un baracchino. Aspetta, ti sto mandando la foto. Si può fare sia automatico che manuale, capito? Si può fare, cioè che la ventola si accende e si spegne a quella determinata temperatura, raffredda e si spegne da sola e si accende da sola, oppure tramite regolatori di giri come ho messo io qua. Come devo fare? Aspetta, sto mandando la foto. Come lo trovo questo? E questo me l'ho fatto io. L'alimentatore così è il tuo. Devi fare così, me lo devi lasciare, te lo devo fare, se no ti prendi direttamente il pezzo senza stare lì a saldare i componenti insieme, ti prendi direttamente il circuito e lo attacchi alla ventola. Ho fatto un po' casino. Aspetta, un attimino. Aspetta che scendo in magazzino, te lo prendo un altro, ne ho due, ne ho. Ti sto mandando la foto di quello che ti serve. Guardate la foto. È che questo non funziona, se no ti avrei dato questo. Aspetta, lo riprovo, ma non mi funzionava. Questo è quello che ho messo io direttamente, capito? Ho capito. Vedi quei due morsettini che ci sono? Lì ci infili, da una parte ingresso la ventola, la corrente, e uscita i fili della ventola. Poi fai il buchetto nel coperchio dell'alimentatore e lo accendi, questo c'è anche on off, capito? Lo spegni e lo accendi, oppure regoli la velocità della ventola a tuo piacimento. Aspetta, lo ricontrollo. Ma mi sembra che ne avevo comprato un altro, se lo trovo te lo do. Vedi, guarda, come non me lo piace. Quando mi entra nell'apparecchio mi fa un casino meno. Sì. sia. Ehi, no, stavo guardando, ma non funziona. Ne avevo preso due e uno però non funziona. Ma costano intorno ai 5 euro, mi sento, questi così qua. Ehi, comunque ti stavo dicendo, ho messo l'altro e va molto bene. L'altro molte spurie, non serviva a niente. Devi provare a staccarla, ma la ventola e vedere se te lo fa, se è questione di rientri che fa l'alimentatore, perché di quei modelli ce ne sono che fanno un casino di rientri o ti provocano un sacco di QRM. Ma qua appena sotto, ma non fa niente di più, e sta anche funzionando bene l'applicatore, vero? Se satura qua, sì. Vabbè, 9.30 ci sarà. Sì, 9.30, sì. Gappa, vabbè, satura perché siamo vicini. Però ora funziona. Probabilmente in distanza vai molto meglio, caspita. Se ne morì a prima, non ce la faceva. Prego. Poi il marrasco lo conserviamo. Ogni tanto si può accendere, ma questo caso è molto mondo di ruggine. Quello è allora. Una volta che monti poi l'antenna non hai bisogno di chissà tu. È un aiutino che ci vuole sempre, però non ce l'è mai dalle parte. Quello sì. Capo, vedo che funziona. Ecco. Avanti. Un controllo su Santiago Radio, per cortesia. 95, radio 5, dai. Cappa, grazie. Boh, non so chi era. Non ho sentito, la verità. E turati le orecchie, turati le orecchie, Antonio Mambo. Questo qua è un superstar, è molto più carino. E io manco a paragone, va. Ma te le vuoi sturare le orecchie, oh bombolo? Tu, guarda che sta chiamando Rattalino. Rattalino, dove sei? Zona canica, là. Macchina. Sì, Anto in macchina, per quello, magari non lo senti, per quello. Mi senti, ma lui mi sente a me. Sì, lei già lo so, tu. Sì, già ti sento. Sì, prova adesso a Rattalino. Già ti sente lui, sì. Zona canica. Sono negativo con la zona. Prima del fatto il gabinetto, zona canica. Se non la mettiamo sul petto, Marco ti si ammazza. Già, non riusciamo più a guardare là. No, è come facciare coperta. È la stessa storia di Emanuele, capito? Siete puntati tutti e due verso Sassari, però siete negativi per dietro, certo. E io tu, sai, io sono pronto, però se manca quella storia là, la scala, quella roba lì, e poi siamo a posto. Non c'è problema, me la imprestano. Così saliamo a fare sovraluogo, mi prendo con le staffe e le modifico e siamo pronti. Nel frattempo prepari il cavo, o se ce la fai quel lavoro là me lo dai. Gappa, gappa. Allucinante, e tu mi intendi, io non ricevo indietro. È una cosa che non si crede. Cioè, proprio da fardone. Antonio, mi senti adesso? Aspetta 2 minuti che mi avvicino un po' di roba da qua, perché sono un po' casino. Via, fai a tu, fai. Vabbè, Zinco, ci sei? Aspetta, Luca, mi senti? Se non ti sento io, fra. Buonasera. Ciao, Luca, guarda, sono in BM, dammi un rapporto di segnale, fa la cortesia, sto provando l'antenna. Ma sei in movimento, scusa, Ma per il positivo, sì, in movimento, sono qua vicino alla Vectro. Allora come faccio a darti un rapporto di segnale? Se passi da 5 a 8, da 5 a 8. Zappa. E la radio, mi sei? La radio buona, La radio sì, 6-8 adesso il segnale. Zappa, zappa. E c'ho stazionaria nell'antenna, devo regolare l'antenna, capito? Come quello smesso che sono, è sceso in terra e si è rotto. Fanculo, ragazzi. Faccio buscare un rover per tararla, perché non ne ho, non lo può prendere uno. Gappa. Tu non hai il rover, metro Luca. No, io c'ho questo che è collegato qua all'SX200 e poi vabbè c'ho in vendita l'accordatore. C'è in vendita due accordatori, Rosmetro, Wattmetro fanno e HF, uno CB, il TM1000 e l'altro HF, che fanno entrambi Rosmetro, Wattmetro e accordatore. No, me ne serviva uno per la 27, uno normale, dai. Il TM1000 che c'ho in vendita, se ti interessa quello non so. Però lo sai che è un barrasone, da mettere in macchina non va bene quello. No, mi serve giusto per regolare stazionare, ma che non sia attuatore. Ah no. Ne avevo uno piccolino ma l'ho smontato, perché mi servivano i connettori, perché intanto era di Alan HQ, non so cosa, piccolini. Gara, sempre a carica, Adesso ho vicino una pusata a San Paolo. 9:10 adesso. Avanti a tu. Ora ho sentito anche io un passaggio. Natalino! Basta voi! Ehi! Non ti sento ancora bene, se secondo che punto è, San Paolo, ma San Paolo del Brasile. E allora? Solo che là c'è vita, lì c'è morte. Sì, a capacca via siamo, eh. Siamo grandi, avanti. Ehi, 9:10. Oscillanti, 9:5, 9:10. Avanti a tu, vediamo se ti sentono. Antonio, stai uscendo male, dove sei, in FM? No, è che a Natalino ho sentito sul nome. Bravo. C'è qualcosa che non va a sapere. E che ne so io? Io sono sul 10. Perché lo sento sul 9 io? Sarai spostato di qualche kilohertz. Ora ti sento Natalino. Sono vicino a casa, là. Sto per nella via di casa. Cappa! Ora va bene. Mi senti più centrato tu, Luca? Io. C'era qualcosa che non andava bene. Per quello che lo sentivo da calare a fianco. Natali, mi senti ora? E io ti sono anche prima. Cappa. Cazzarola. C'era qualcosa che non andava. Vabbè, stand-by che devo scendere da qua e devo salire a casa, va. Cappa, ok, non c'è problema. Ok Natali, ci risentiamo. Come mai mi ha fatto quello scherzo, Luca? Che è avanti? Antonio Bombo, non riscendi, ami. Ehi, già ti sento, fra, avanti. Dammi un controllino che sono NBM, dai, per gli insulti. 9:20 Radio 5. Tu forte mi senti? Una bomba. Cappa, questo è il superstar, non è l'altro, Dove sei arrivato tu? Mettiti il microfono alla bocca, se non ti sento. Sono arrivato al mare. Ah, a casa tua, sei fortissimo, sì. Cappa di positivo, va bene. No, è macro. Radio 5 qua. Va bene, no? E allora Marian. Ma che tu sei normalmente? Ehi, allora, via. Allora, ti intendo bene. Anche in macchina ti sentivo bene. Solo che eri tu che non mi sentivi. Perché vuol dire che avevi i radiali puntati da verso Sassari, magari, e dove ero io non lo sentivi. No, c'è proprio il coso più una cosa tirato. Puro chisso, andare. Perché ti sentivo in un altro canale? Perché eri spostato. Ma esce, vedi, un attimo che devo vedere una cosa al computer che mi è arrivato un messaggio. Ciao, ma chi è che può entrare avanti? Adesso a vedere se mi ascolti. Ho voglia, sei bello fortino sei. Davvero? Eia, lascia fare la sorpresa. Ma le mani che c'è più forte di Nazarino. Io? Io, più forte di Nazarino ti sto arrivando. Se sei quasi vicino a casa, sì. No, sono al monte, tu, vicino a casa sto arrivando, dai. Cazzo non vuoi prendersi? La ricezione da paura. A voglia. Andiamo, andiamo, papà. Sai che tu non si droga, no? No, è così normale, se ti portano bene. Ascolto bene, a tu. Guarda questo passaggio, è differenza c'è, 1, 2, 3. Sempre 9.30. Guarda adesso questo passaggio. Ehi. Antonio, tutti scappati ve ne siete. Forse questo. Sul tetto almeno riceve, trasmette come si deve. No. Antonio! Hey, there's nothing this month. You're making hunger pains getting me now. I'll house you. That can't put long. I'm out. Oh, no radio for the village in the office. Yeah, I understand. My mind understands. And my stomach really understands. Tu propagazione un bel. Anche io la sento un bel di propagazione. Sennò chi se l'avevi blocchi? Minchia. Platanona sono, Luca. A lanciare? No, vabbè, ho cambiato antenna comunque, dai, Luca, che quella che c'è è troppo piccola. Arrivi, arrivi, a Puglia. Quindi va bene, 9.5. 9.5, sì. E adesso quant'è? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, sì, calà. Eh? Prova, fai due passaggi. 1, 2, 3, 4, 5, lì sono attaccato, aspetta un attimo, ferma. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passi da 7 attenuato a 8. 7 attenuato. Andare, andare, andare. Fascio ontologia allora, Luca, va bene? Ho voglia. Baba Gava. Nattalino, quelli ti ha fatto? Buonasera. Ecco, mi stavo cercando io. Ma non è un rapporto di segnale? Franco, dove sei? Sono località Platanona, mi ascolti? Eia, qua mi arrivi Santiago 9, Radio 5. Quindi va bene, dai, ok. Va benissimo, va benissimo. Platamone è un tiro di schioppo da qua. Dava gava. Vai Luca. Eia, sto facendo roba. Io sto ascoltando, se avete bisogno chiamate. Via Luca, fai pure, non ti preoccupare. Franco, ma sei a casa o in macchina? Attenzione Franco. Emanuele, buonasera. Via Emanuele, ti sento piccolo piccolo, ma già ti tiro fuori. E finché rimani con l'antenna dentro. Anzi, troppo bene stai andando, Emanuele. Avanti, avanti, chi è? Sì, ti ho chiesto dove sei, sei in movimento, sei in barra mobile oppure sei a casa? E qua adesso sei sceso a 8, però hai ogni tanto ti sposti 8, 8 e mezzo, 9. Sì, già ti sento, tu ovunque ti sposti, se chiami ti dovrei sentire lì, tutta quella zona per me è favorevole. Stavo parlando con Emanuele, non so se riesci a sentirlo, Franco. Emanuele, ha detto che neanche Emanuele ti sente, Franco. Sì, io ti sento sempre forte e chiaro qua, non ci sono problemi, Franco. Sì, già siamo qua, tanto anch'io ero al computer e ho acceso un attimino adesso, ho sentito Luca e te, Franco, e adesso è entrato Emanuele. Vai pure, Emanuele. Break. Avanti, break. Dai, buonasera a tutti, indistintamente. No più room. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Carlo, buonasera anche a te, dai. Non so chi ci sia perché sta accendendo in questo secondo. C'è Emanuele e Franco che è in macchina, però non so se è sceso, è nella zona di Platamona. Comunque si farà sentire tra un attimo. Santiago 8, Franco. Sì, va bene, adesso l'ultimo passaggio, sei sceso appena appena. Gianni, lo senti Emanuele? Cappa, lo sento. Avanti Emanuele, ciao, buonasera, dai. Franco, com'è la Budi Budi? Dove è chiusa? In che punto è chiusa? Mi sente Franco? Franco! Vedo che sia sceso Gianni dalla macchina. Ma pescare sta andando? Non lo so, mi ha detto che era in quella zona lì, che doveva scendere un attimo, doveva fare qualcosa. Già riprenderà tra breve però. Sì, anche io ho letto sul giornale, ho visto delle foto di una crepa. Però non ho capito se sul cavalcavia, quello che è da Platamona verso Sassari, dove c'è il bar Graziella, come si chiama, quella zona lì che c'è tutto quel curvone, quella sopraelevata, se è lì la lesione oppure dall'altra parte, nel senso verso da Sassari verso Platamona, non ho capito. No, io penso che sia quel ponte che ci hanno messo un bel a farlo, ti ricordi quando hanno rifatto la Budi Budi, che ci hanno messo tantissimo a fare quel ponte, è quello lì che è acceduto secondo me, dove passa sotto l'acqua, dai, e c'è un rio. Ah, ho capito, e beh, se quello è grave allora, perché lì blocca tutto. Infatti, volevo chiedere a Franco dove era passato. Quello vicino a Graziella, a fianco di Graziella. Ah, allora lì non è la sopraelevata, quel curvone grande che hanno fatto, immagino sia quello. E lì, direzione Sassari. Bene, da quello si può aggiustare allora, dai, è sicuramente qualcosa che ha acquedotto, qualche traversina e magari sarà da sostituire, perché lì ci passano anche i mezzi pesanti e le vibrazioni, insomma, sono tante lì. E magari il terreno acceduto vuole più. C'è tutto saturo. Sempre saturo, fra. E devi regolarti quell'apparecchio perché c'è troppo saturo. Si capiscono a malapena le parole adesso, però prima non si capiva. Adesso si prova. Santiago 4, Radio 2. Franco, ti sei abbassato parecchio di segnale di radio, non so dove sia arrivato tu, magari sei in mezzo agli alberi, non lo so. Guarda Gianni adesso, come mi ascolti? Adesso c'è una svelta. Va bene? Sì, approvo a vedere il segnale. L'abbraccio sono attaccato, è 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 30, sì, Radio 5. Prato Radio 5, adesso provo a attaccare. Aspetta, Sì, Santiago 8, Radio 5. Così sono attaccato, 1, 2, 3, aspetta un secondo, le mettiamo sulla chiesa, se deve scaricare la batteria. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5. 9, 5, Radio 5. E proprio per 1, 2, 3, E già risolvo. Guarda adesso, 1, 2, 3, sempre 1, 2, 3, aspetta un attimo. Vai, vai, tranquillo, non provo. Dai, provo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Località Plaza 1, la partoria, la torretta, cambio. 9, 20, sì, adesso, dai, gli ho messo gli occhiali, 9, 20. Cappa, quindi va bene già, lascio tutto così, dai, ok. Cappa, cappa. Cosa stai facendo, pescando? No, faccio da farmi un giro, stavo provando una cosa in macchina. Perché ho messo un'antenna fissa, capito, l'ho trovata la magnetica. E ho fissato la basetta dove c'era l'antenna della radio. Ah, ho capito. E la radio adesso come la ascolti? Antenna della radio ce l'ho buttata sotto la capota. Come ha fatto Salvino quella volta, sì, va bene lo stesso, si sente lo stesso. KK, hai fatto bene, fra. A me non stai sempre a Cavana, a Munilla, e che antenna hai messo? La frusta, sto uscendo con la frusta nera, la vecchia frusta nera piccolina, no, quella grande, quella da un metro. Quella che devi dare a me, da. No, non è quella. Bastardo, non me l'ha mai data, gli ho fatto la corte ma non me l'ha mai data, perché siccome la macchina mia è nera, se avessi dovuto fare il buco avrei messo quella, capito? Ma non le faccio, c'è in vendita adesso, però non so come vanno quelle che ci sono adesso. Va bene, riprendi, Carlo, dai, riprendi tu e poi fai girare. Quelle frusta vera se erano belle come antenne. Sì, le conosco, sì, buone antenne. Gianni, ma è il microfono quello di ieri? Cappa. Comunque già sta andando bene. Sta funzionando anche la preamplificazione. Guarda, ero al minimo, guarda adesso. Ehi, a voglia. Qua mi arrivi sempre forte tu, anche se esci con 2 watt e con senza preamplificazione arrivi forte. Carlo! Via, fra. Dammi un rapporto, Carlo, aveva sto arrivando adesso e con le coordinate. 9 più 20 da me, Radio 5, fra. Arriva lo stesso segnale. Benissimo, Franco. Invece Carlo arriva sul DB del più 30. Sto uscendo con 4 watt, sempre quelli. Più su per il più 30, capito? Sì, più del più 30, quindi sei 9,40 sarà. Sì, anche a Roberto arrivo così. Capito, ma Roberto è vicino, vicino a te, invece io sono abbastanza lontano. Lontano non tanto, in linea d'aria non sei tanto lontano. Se tu pensi che fai il Ponte Nuovo, diciamo, linea d'aria non è tantissimo, capito? In linea d'aria penso sia anche abbastanza vicino. Certo, Roberto è più vicino, ma già io ho provato con Claudio, più o meno avrà la stessa distanza che hai tu, mi Claudio, da me. E come ne arrivi a Claudio? Stesso, 9,30. L'antenna è buona, senza ombra di dubbio la posizione è bella e l'antenna è buona anche. Andiamo bene, andiamo. Ancora a me, Gianni, mi ascolti ancora che mi sto spostando, cambio. Già ti ascolto. Attenzione, Franco Gargamella. Cabinetto. Dove sei, Franco? Fra, Marco, dove sei? Ma la rotonda sul mare, dove c'è la gelateria? Oh Franco, ti interessa un computer fisso serio? Fammi sapere, altro che portatile. 9.30 fra qua. KK, andate. No, ce l'ho Luca, già buscato. Io per te, c'ho un fisso serio, va bene, ok. È di un amico, gliel'ho messo a posto, è un bombo, un i5 di processore. Piccolino, con monitor, tastiere e mouse. Va bene, se ho qualcuno, ci può certo di hard disk, è un bombo. Siamo rimasti di nuovo Windows 10. Va bene, ciao Carlo, avanti. Ciao Luca, come va? Mi sto ancora lavorando da ieri, ho fatto un computer, uno sistemato, adesso stavo sistemando l'altro. Da ieri. Adesso devo smontare e cambiare la pasta di raffreddamento. La CPU. Su quella roba tua ci sto lavorando, quasi finito, perché poi te lo mando e mi dici se ti va bene, se devo togliere, aggiungere, mettere qualcos'altro, perché è il formato europeo quello lì e lo puoi mandare dove vuoi tu, a chi vuoi tu, e c'ha la fotografia e tutto quanto. E dovrei finire, perché poco fa sono dovuto uscire e ho spento il computer, se ho un attimo tipo dopo cena magari riesco a finirlo anche stanotte. Lo devo giustificare perché è un po' stortino eccetera, e poi quando l'ho ultimato, insomma, già te lo faccio avere subito, come l'altra volta te lo mando sia in formato, se riesco, Word, e poi te lo mando anche in PDF. E comunque ti lascio lo spazio solo dove devi mettere data e firma, poi per il resto se va bene me lo fai sapere. Sì, io ci provo, senza impegno, tranquillo, poi li porterò, me ne farò un po', li porterò, vediamo, speriamo che là sarebbe l'ideale, capisci, a me sarebbe l'ideale, magari, vabbè, dai, speriamo bene, speriamo che quest'anno mi porti fortuna, e se no ciccia, continua a fare quello che sto facendo, avanti già. Ehi, ciao Lu, come va questa radio che l'ho fatto ieri, questo microfono Lu? Bene, bene, ciao. Barattolo, comunque già va bene. Barattolosa, vabbè, io sto parlando da lontano, c'ho un braccio lontano. E comunque già va bene, è chiara, dai. Effetto camera, che microfono stai usando? Non ne avevi più qua. Per quello, Ma normale, modificato. Modificato da me. Ah, ti hai fatto il ponticello? Eia, però dovresti mettere una capsula di quelle da telefono. Dovrei averne qualcuna, te la do. Quei telefoni bianchi della Sirio, esci meglio, c'ho quella, la senti com'è bomba. E io c'ho quella del Tower più 3, la capsula. Ma forse perché sei troppo lontano. Io sono praticamente 50 centimetri, 40 dal microfono. Guarda, adesso mi sono avvicinato, guarda. Va bene, non è male, dai, però Carlo, confermi. Sì, sì, no, già è chiara la voce. Magari è troppo amplificato, se abbassa un pochettino magari toglie anche forse tutto quell'effetto camera, magari. Però già è chiaro, Gianni. Guarda, adesso l'ho abbassato, guarda come va. Come va meglio adesso? Allora lascio così, dai. Io non mi sento, non mi sto ascoltando in cuffia, se no l'avrei regolato come si deve. Va bene, avanti Franco, dove sei arrivato? Franco, è sempre dove c'è la gelateria. Delle giustizie italiane. Gianni, lampade di tutto. E tu sotto la culinina, no? Gianni, quando avete parlato assieme, cosa avete detto? A chi tu pure usa miti? Che sei zitto, eh? Vuoi parlare con Mulo tu, eh? Per di bella. Ah, brutto drogato che non sei altro. Come tu sai? Vai, vai, voglio un brodino di mammo. Qua, ma ne va. Natalino. Oia, ciao caro. Ma te immagini, mi dice sempre cosa questo Luca, che hai detto Natalino? Questo Luca mi dice sempre cosa. Ehi, buonissimo. Oh, tu sai? Luca, trattalo bene Natalino. Sono un drogato, cosa l'ho trattato bene? Tratta lui male a me. Diceva che sempre sotto il ponte, bugiardo. È un boccone. Sente mamma. Questo era Natalino che era con cosa, era con... Sandrino! L'ho visto io! Un attimo di bianco che vuole entrare Antonio. Uè, buonasera a tutti. Ciao Antonio, buonasera anche a te, dai. Riprendi Antonio, a girare. Ciao, com'è più squillante è questa? Questa è il superstar. Ciao, va bene. Questo è un altro baracchino, Ciao Antonio, buonasera. E buonasera anche a te. Sono aumentato di segnale. Prova. 1, 2, 3. Se sei su DB del 9.30. Gappa. No, ciao. Ho fatto delle modifiche, ci ho piazzato il superstar. Bene Antonio, va bene, la radio, il segnale, tutto buono. E da te che sei più lontano ho aumentato. Adesso questo passaggio che mi hai fatto era a fondo scala il segnale. Radio 5, buona. Già andava, da le modifiche le ho fatte bene. E sono con la boomerà. Stacca il lineare. No, non è un lineare. Carlo, se tu andiamo a fondo scala io ti faccio il segno di smettere allora. Come si spiega? Guarda, tu sei anche troppo forte, Luca. La tua radio io la sento da tipo Gianni, ti sento da Sassari sino all'aeroporto e viceversa, capito? Ma esci sempre forte sia di segnale che di radio. Perché è sempre bello pompato. Tu sai, va bene questo baracchino, bello abbinamento, va bene, dai. Sono di questi giorni, vuoi agganciare il typhoon. L'altro, che se n'è andata, forse benedire, poi se l'ha ripreso, lo lasci fermo, è così. Vabbè, dai, riprendi Carlo. Mi assento un attimo, devo fare una cosa, prendo subito. Era Luca, vai Antonio. A me, tu, Luca e Antonio, arrivate tutti 9.30. Un po' di bianco che ho gente che mi cerca. Cappa, avanti a chi tocca, Antonio, riprendi. C'era anche Emanuele, Emanuele ci sei? Emanuele, quando vi siete in parlare parlate. Sa. Che dati vicino? Ho dovuto entrare in bagno correndo. Diciamo che sto organizzando tutto a metterla sul posto già. Ma qua è la boomerang sempre. Eia. Aspetta un secondo.